Diretta dall'Arcivescovado di Milano, la prima radiotrasmissione confessionale Padre Milan e Chierico Manera. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci signori, eccoci da Padre Milan, Ave Maria piena di grazia. Va bene signori, siamo qui alle 9 e 8 minuti insieme a voi. Oggi ve lo dico già, abbiamo una puntata nella quale mi sono appuntato almeno 400 cose da dire, per cui avvisate Mauro Meazza, Deborah Rosciani. Oggi andiamo in onda fino alle 12 perché non c'è spazio, non c'è spazio fino alle 11 del mattino. Mi chiedono subito come starà Olbelot, sarà ancora in coma etilico stamattina per la vittoria dell'Atalanta? Dopo dobbiamo chiamarlo, dobbiamo fargli un'improvvisata senza magari neanche avvisarlo, lo chiamiamo Olbelot per capire. Ieri ci aveva detto che sarebbe finita 2-0, invece le previsioni sono andate anche oltre l'immaginazione di Belotti, 4-1 per l'Atalanta. Il sogno Atalanta che continua. Cari ascoltatori, siamo qui, voi all'800 024 0024, se volete 349 238 6666, mettetevi comodi per l'appunto, perché vi ho detto che abbiamo tante cose da dire. Oggi i giornali sono ricchissimi di notizie che mi hanno colpito. Alpino insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, vai. Enthusiasm about the future. Fatemi fare la premessa sulla politica. Cosa vi avevo detto ieri? Ma ragazzi, porta a porta. Vabbè, ma giustamente Bruno Vespa gongolava ieri per l'attesa intervista porta a porta. Mi ha detto Miriam Lucchetti che hanno messo Renzi sul trono, no? Sì, vabbè, com'è lì. Guardate tutti porta a porta, perché l'Italia dipenderà da questa intervista le sorti del futuro dell'Italia e degli italiani saranno legate a questa trasmissione di ieri sera, nella quale ha annunciato di fare la riforma per eleggere il sindaco d'Italia, cioè il premier. Ma ragazzi, cioè una riforma che ha bisogno di 4.872 passaggi parlamentari prima. Cioè questo è stato tutto sto casino. Ma io ve l'avevo detto. Cosa vi avevo detto? Che l'obiettivo di Renzi non è far cadere il governo, ma far vedere che c'è, e quindi creare tutto sto bailam per arrivare a annunciare porta a porta. Dirò delle cose sconvolgenti. Che ha detto? Portiamo l'unico metodo istituzionale che funziona, che è quello dei sindaci a livello nazionale. Mettiamoci d'accordo per eleggere, cambiando le regole, il sindaco d'Italia. Cioè, non lei diceva. Le ho già risposto, lo ripeto la terza volta. Ci sono due modelli. Uno è il modello nazareno e uno è il modello maccanico. Il modello nazareno e il modello maccanico. Io penso che questa storia del sindaco d'Italia sia l'unica possibilità per uscire dalla melma. Per uscire dalla melma eleggiamo direttamente il premier o sindaco d'Italia. Questo è il grande annuncio dell'intervista nella quale si doveva terremotare tutto. Io vorrei sapere, ieri, entrando nelle case degli italiani, di milioni di italiani, quanti di loro sapessero in quel momento che cosa fosse il metodo maccanico. Non meccanico dove portate la macchina a riparare, il metodo del lodo maccanico, del governo maccanico, il governo dei ragionevoli, vicenda politica del 96. Cioè, voi vi rendete conto? Poi chiedetevi perché uno gira sull'Atalanta e guarda l'Atalanta, dice fammi guardare almeno una partita di calcio. Ragazzi, come direbbe Cetto, la qualunque, che du coglioni! Vabbè, la politica è in un momento di vuoto totale, proprio di vuoto pneumatico, lo dico. Tutte le cose da fare, tutti i tavoli, le crisi di lavoro, le crisi aziendali, le migliaia di italiani che perdono il posto di lavoro, eccetera. Dobbiamo fare la riforma per eleggere il sindaco d'Italia, per carità. È importante, sì, però... Beghe loro, cose loro. A proposito di crisi di lavoro, ce n'è una l'Ilva. Ieri sono arrivate le sardine a Taranto. C'era Santori che ha parlato. Sentilo qua, Santori, le sardine. Credo che sia importante. Noi siamo venuti un mese e mezzo fa. Quando è stato, Maristello? Un mese e mezzo fa siamo già stati a Taranto. Io personalmente sono già stato a Taranto. C'è una giornata meravigliosa come questa e abbiamo parlato di complessità dei problemi. Senti, questo gemellaggio tra Whirlpool ed ex Ilva di Taranto, tra lavoratori. Dai, come lo risolviamo? Credo che sia un bel gemellaggio. Whirlpool ha lavorato molto bene in campagna perché è riuscita ad aggregare altre realtà che avevano vertenze simili sta per rivendicare l'importanza del lavoro e l'importanza del dato sulla disoccupazione. Ed è importante anche iniziare a confrontarsi con il resto del territorio. Ed è quello che facciamo sta noi, chiudendo. Semplicemente un dato di aggregazione. Aggregazione? Ma stanno chiudendo, stanno perdendo il posto di lavoro. Cioè, non ho... come unire? No, unire, dargli uno stipendio. Come, Santori? Come facciamo a risolvere questo tavolo? Non si sa. Infatti, a un certo punto è spuntato un giornalista. Io non so chi sia questo giornalista televisivo di Taranto, locale, di una TV locale, non lo so. E ha iniziato a fare delle domande a Santori. Anche in tono un po' aggressivo, sentite questo giornalista che sicuramente qualcuno eleggerà già a idolo anti-sardina. Senti, Questione Ilva, la chiudiamo o no? Noi non siamo qua né per dire se va chiusa l'Ilva né per dire. E che siete venuti a fare? A perdere tempo? Ma io sono venuto a conoscere delle persone. Scusate, ma vedo che proprio siete non il nuovo che avanza, ma il vuoto che avanza. Ma tu chi sei? Il vuoto che avanza. No, non sono della Lega. Cioè, questo sei della Lega? No, è un giornalista che fa delle domande e chiede delle risposte. Non siamo venuti qui a dire se bisogna chiudere l'Ilva o no. Siamo venuti a incontrare delle persone. Cioè, è incredibile che vadano a incontrare delle persone e ci siano 30 giornalisti. Ma se vai a incontrare delle persone, ma che ci frega? Cioè, fallo liberamente, unire, aggregare, incontrare persone. Ma cosa bisogna fare per la Whirlpool? Cosa bisogna fare per l'Ilva? Cosa bisogna fare? Cioè, giustamente il giornalista dice, ma siete il vuoto che avanza, non il nuovo che avanza. Il vuoto, come è la politica generalmente in questo momento. Il vuoto che avanza. C'è però qualcosa di concreto che ho trovato sui giornali. Prima notizia. Attenzione, cari studenti, finalmente puniscono chi occupa le scuole. Non lo dico io come frase, ma è un titolo di Libero che però io sottoscrivo. Finalmente puniscono chi occupa le scuole. È successo a Pisa. A Pisa, dopo che sono stati occupati vari istituti scolastici, i dirigenti scolastici dei suddetti istituti hanno fatto l'elenco dei danni e hanno spedito a casa lettere ai genitori e agli studenti per risarcimento danni. Al liceo scientifico Buonarroti di Pisa, una prima stima parla di 10.000 euro di danni. Si sono fottuti 11 computer e un videoproiettore. Hai capito che bella occupazione degli studenti? Si sono fottuti i PC. 4 estintori anche, visibili danni a porte e finestre. Più o meno lo stesso al Da Vinci Fascetti e anche negli altri istituti, per cui i presidi, come scrive il Tirreno, lo riporta Libero, hanno preso carta e penna, hanno detto adesso pagate, cari studenti, pagate, perché occupare con le K, pagate se non voi i vostri genitori, oppure con lavori socialmente utili, vietate le gite, vietate, così non andate a sfasciare magari gli alberghi dove vorrete vorreste occupare per fare dei collettivi all'interno degli alberghi, sfasciando qualche finestra, qualche porta, qualche camera. Avete vandalizzato, altro che occupare per una scuola migliore. Siete dei vandali, adesso voi e le vostre famiglie pagate. Le famiglie, mi dispiace, ma essendo minorenni devono pagare per responsabilità. E questo è quello che succede. L'altra notizia che mi ha colpito, ce ne sono tantissime, ma andiamo a una per la quale c'è un primo ospite. Il ministro dell'interno Lamorgese era ad Ancona, credo, e ha parlato di spaccio. Ha parlato di spaccio dicendo che non si può più tollerare quel fenomeno che le forze dell'ordine capiscono molto bene e conoscono molto bene, e cioè degli arresti di spacciatori che poi devono essere rilasciati perché le leggi comportano questo in sostanza, e dopo 24 ore si ritrovano a spacciare sulla strada le stesse persone che le forze dell'ordine hanno arrestato 24 ore prima. Allora il ministro Lamorgese ha detto basta a questa pratica. Si superi l'attuale disposizione dell'articolo 73,5 che non prevede l'arresto immediato per i casi di spaccio di droga. Quindi abbiamo fatto un tavolo di lavoro con il Ministero della Giustizia, dando la possibilità di arrestare immediatamente con la custodia cautelare in carcere di coloro che si macchiano di questo reato. Il fatto di arrestare senza la custodia cautelare in carcere, il giorno dopo vedere sullo stesso angolo di strada lo spacciatore preso il giorno prima, incide anche su quello che è la demotivazione del personale di polizia che tanto viene, si impegna su questo versante, e vede la propria attività essere posta nel nulla quando poi il giorno dopo li ritroviamo allo stesso posto. Ecco, io voglio salutare Patrizio Gonnella, che presiede Antigone, che è un'associazione che si occupa anche di tutto quello che succede nelle carceri italiane. Buongiorno Gonnella. Buongiorno, buongiorno a voi, scusate la voce, ma è l'influenza. Ma no, ma ci dispiace, insomma, grazie perché l'abbiamo chiamata questa mattina per commentare questa notizia. Allora, più spacciatori in carcere, basta arresto senza la convalida in carcere. Il ministro Lamorgese dice il carcere. Spesso si dice il carcere è un luogo dove uno entra piccolo criminale e purtroppo si affina e diventa grande criminale. Allora immagino che questo sia l'allarme che lei vuol dire, di attenzione, che la soluzione che sembra pronta del mandare tutti in carcere non è che aiuti poi alla lunga così tanto. Immagino. Infatti ci dobbiamo mettere tutti insieme nel capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo è sicuramente motivare le forze di polizia, ma il primo obiettivo dovrebbe essere evitare che giri droga. Il primo obiettivo dovrebbe essere che i nostri giovani, i nostri ragazzi facciano meno consumo. Ecco, tutte le politiche degli ultimi 30 anni più o meno sono sempre state uguali in Italia, e quindi più o meno repressione, ma è sempre quella la ricetta. E in realtà il consumo di droghe non è mai diminuito. E abbiamo invece visto aumentare notevolmente la presenza di tossicodipendenti nelle carceri. Do qualche numero. In Italia uno su quattro dei detenuti è tossicodipendente, accertato. Questi sono dati. Ma questo perché avrà commesso, per continuare a drogarsi, dei reati, no? Infatti. Cioè questi reati sono, esatto, sono spaccio, cioè questi. Sono piccolo spaccio, quindi coincide la figura del consumatore. Perfetto. Con la figura dello spacciatore. È un sottoinsieme, ovviamente, perché poi ci sono i grandi spacciatori, ma quella è un'altra categoria di criminali. Coincide questa figura ed abbiamo dei dati già che sono molto più significativi e alti della media europea. I dati del Consiglio d'Europa, parlo però dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione, ci dicono che in galera ci sta più o meno il 18% di detenuti su scala europea che è dentro per aver violato la legge sulle droghe nazionale loro. A noi è il 35%, e di questo 35% abbiamo detto poi una gran parte è anche tossicodipendente. Quindi la nostra legge non è che non sia severa, è già abbondantemente applicata. Però il fenomeno che sottolinea il ministro Lamorgese esiste, cioè di spacciatori che dopo 24 ore vengono portati, arrestati, ma non senza custodia cautelare in carcere, e dopo 24 ore tornano sulle strade a spacciare. Questo effettivamente... il problema è che forse dobbiamo inventarci qualcosa di diverso per togliere il bisogno di droga nei nostri ragazzi e per evitare che si guadagni troppo dalle droghe, questo, perché si guadagna troppo dalle droghe. Per esempio, io ho... Questo sarebbe un mondo perfetto, Gonnella, nell'attesa, però, come mondo, dire, qualcuno che... Cosa possiamo fare? Sì. Per esempio, andare ad ascoltare alcuni poliziotti e alcuni magistrati che non è che hanno una opinione perfettamente coincidente con quello del ministro Lamorgese, e pensano ad esempio che se noi avessimo il coraggio di adottare politiche di decriminalizzazione, probabilmente decriminalizzazione quindi significa di non mettere in galera, di andare verso per esempio un modello simile a quello canadese. C'è un poliziotto italo-canadese che è stato il capo della polizia in Canada, un orgoglio italiano potremmo dire, Zaccardelli si chiama, Giuliano Zaccardelli, è stato il capo della polizia canadese ed è quello che ha, diciamo, avviato il processo del Canada per superare la criminalizzazione dei consumatori di droghe. Sì. È possibile la polizia verso i grandi criminali, verso i narcotrafficanti e verso le mafie. Però altrimenti... voglio dire, cioè, le mafie sono contrastate anche in Italia, laddove si riescono a beccare i grandi spacciatori, così anche le narcomafie. La depenalizzazione del consumo, piccolo consumo, c'è già, cioè se ti fai una canna, sì, se sei minorenne vieni registrato, però non è che finisci in carcere. Se diventi c'è la detenzione, sì, che a volte è una detenzione, perché lasciamo perdere, non consideriamo il singolo ragazzino che va a comprarsi una minima monodose, che viene preso con quella monodose. Ma infatti credo che il ministro l'abbia anche detto, non è il caso, che ne so, dello studente che spaccia, perché bisogna usare questa parola, un po' di spinelli ai compagni. Non è quello che finirebbe, non è quella persona a cui si rivolge la Lamorgese con questa frase. Però deve sapere la ministra, noi siamo disposti ovviamente su questo ad aprire un dialogo, che come diceva lei in apertura, come dicono tutti quelli che conoscono il carcere non è un luogo dove tu poi ti educhi a uno stile di vita sano, legale, vero, così via. Vero, purtroppo il carcere è stato storicamente definito una fabbrica di criminalità, e quindi ovviamente in una situazione di sovraffollamento, in questo momento abbiamo 61.000 detenuti per 50.000 posti letto, condizioni che la polizia penitenziaria pur a fatica non riesce ad assicurare quotidianamente la vita, diciamo, dal punto di vista igienico-sanitario normale. Immaginiamo se riusciamo a questi ragazzi, che poi sono a loro volta tossicodipendenti e a loro volta, ripeto, hanno condizioni di marginalità di vita. Andiamo a parlare con i SERT, molti di questi hanno le doppie diagnosi. No, ma infatti io direi questo, Gonnella, perché non sarebbe giusto, ma invece di combattere l'idea di dire togliamo la propensione a drogarsi, che è un mondo ideale, però purtroppo c'è, forse bisognerebbe, voi lo fate, battersi per avere delle carceri dove uno non entra e diventa un criminale, perché le condizioni di vita nelle carceri sono terribili, generalmente. Ideale, io ci provo sempre nella vita ad avere l'obiettivo ideale, che però sappiamo che esiste là in fondo e lontano, piano piano uno si deve muovere verso quell'obiettivo, perché se no, diciamo, non troviamo la motivazione. E l'obiettivo è quello di avere una società dove non ci sia un forte calo della riduzione del consumo di droghe. Certo, nel frattempo, però, nel frattempo sicuramente dobbiamo migliorare la qualità della vita nelle carceri, perché è un bisogno per tutti. Immaginate se un tossicodipendente incontra al spacciatore, incontra un poliziotto, dal poliziotto poi finisce nel sistema della giustizia, quel sistema della giustizia gli cambia in positivo la vita. Abbiamo risolto un problema. Diciamo che l'idea è molto interessante. Io intanto la ringrazio, Patrizio Gonnella, l'abbiamo chiamato questa mattina al volo perché questa frase del ministro Lamorgese è interessante, cioè in cella chi spaccia non vuole più pusher recidivi che nel giro di 24 ore si ritrovano a spacciare, e sta pensando a delle modifiche legislative per permettere questo. È chiaro che ci si deve porre una questione, cari ascoltatori, non è che uno dice li mettiamo in carcere e basta. Guardate che chi sta in carcere poi spesso, e Gonnella lo sa bene, studia questo fenomeno, spesso entra in una vera scuola del crimine, purtroppo, per come sono le carceri italiane. E quindi ci ritroviamo dopo 2 anni che invece di avere risolto un problema, togliendolo dalle strade, dopo 2 anni magari ci troviamo uno che è ancora più incattivito e pronto a, come dire, a compiere gli stessi reati, anzi in maniera più grave. Questo ce lo dobbiamo porre, se no uno dice vabbè, mettiamoli in carcere, buttiamo via la chiave, quelle frasi lì che si dicono e il problema è risolto. Allora, alle 9:27 minuti, adesso vogliamo aprire una nuova parentesi sul tema coronavirus, che sapete monitoriamo sempre con degli ospiti interessanti. Dalla Cina io saluto Roberto Tava. Roberto Tava, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Titolare della Changsha Eurasia, e invece voglio salutare un imprenditore a Cinisello Balsamo della Quickly Tech, Mauro Scioli. Buongiorno dottor Milan. Quindi insomma siete collegati, se volete, siete entrambi imprenditori. Insomma, Roberto Tava lavora con import-export e Mauro Scioli insomma dipende anche molto da questo import dalla Cina. Tava, allora la situazione lì. Sì. Raccontano oggi i giornali italiani che secondo la stampa c'è stato un tentativo proprio ovvero di insabbiamento nei primi giorni di tutta questa vicenda. Però al di là delle questioni politiche mi interessa il riflesso sull'economia. Voi registrate qualche inflessione negativa? Sicuramente registriamo delle inflessioni, ovviamente, soprattutto per quanto riguarda l'import-export o comunque i prodotti che arrivano dall'estero. Questo è dovuto, diciamo che in parte è dovuto anche alla chiusura dei voli diretti, in quanto sono stati messi dentro un pochettino tutti, cioè è molto difficile avere anche dei voli cargo che arrivano in Cina. Questo ha portato anche alcune ripercussioni sull'import-export via nave, sì. Ma non sono stati chiusi in realtà i porti, non sono state chiuse le importazioni e le esportazioni, questo è meglio chiarirlo. Il problema è che le compagnie marittime in Cina, come tutte le altre attività, hanno chiuso i battenti per il discorso del contagio, quindi per i controlli e le verifiche. Uh-huh. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che i transit time non sono più quelli di prima, quindi sono molto più lunghi, che i prezzi anche dei trasporti non sono più fissi come lo erano prima, almeno per un mese, ma si arriva a una settimana al massimo. E non c'è una grande garanzia, diciamo, che la merce arriva nei tempi. Diciamo che questo credo che nei prossimi mesi sarà un po' così. Io a questo proposito, Mauro Scioli ha voluto lanciare un allarme. Voi siete una piccola impresa, so che Sebastiano Barisoni se ne occupa ogni giorno di come questo coronavirus stia impattando sull'economia italiana. Voi siete una piccola impresa metalmeccanica e lei, Mauro Scioli, ha detto: guardate che qui nel giro di pochi mesi si rischia di chiudere, questo è il punto, no? Perché? Sì, perché basta che proprio stamattina ho ricevuto una telefonata del mio fornitore di acciai speciali, la commessa che mi doveva arrivare in giornata dalla Cina me l'ha data dalla Cina per colpa del nickel, che l'80% arriva dalla Cina, acciaio inox. Mi ha spostato data da destinarsi, non mi ha dato neanche una data di consegna certa. Io gli ho detto sì, va bene tutto, però io ho da consegnare del lavoro o degli impegni. Signor Scioli, provi a guardare dalle altre parti, però se va dalle altre parti guardi che è sempre lo stesso giro del fumo, mi hanno risposto. Ma lei davvero dice rischiamo di chiudere e così tante altre aziende che dipendono evidentemente perché nel campo della metalmeccanica noi lavoriamo, siamo una torneria e lavoriamo con gli utensili, le punte, chiamiamole le comunissime punte da trapano, sì, sono sinterizzate di metallo duro. Il metallo duro, la polvere di metallo duro, l'80% arriva dalla Cina. Se per non arriva più il metallo duro, anche le società svizzere che fanno utensili, che fanno tutto, o anche quelle italiane o comunque europee che fanno tutto, servono tutto il settore dell'utensileria, si fermano. Non c'è un'alternativa, è un grosso problema. Qual è l'alternativa? Quali altri mercati dovete a questo punto esplorare? Anche pensando che... Ma l'alternativa, noi fortunatamente, anche se siamo piccoli, siamo abbastanza dinamici, perché siamo fortunatamente siamo associati alla Confartigianato e facciamo sistema, e dunque riusciamo a avere tramite i loro consulenti anche del come posso dire, tramite anche la Camera di Commercio, la Promos, degli sbocchi con fiere oppure eventi o America. Diciamo, in questo momento sta salvando l'America, però, perché sta tirando il mercato americano, e quello che non ci supporta il mercato asiatico, chiamiamolo così, ci supporta il mercato nordamericano, ragazzi, Canada, purtroppo, America. Purtroppo, come dire, quando succede un'epidemia vuol dire non solo gli impatti proprio sanitari, ma ci sono anche degli impatti economici a breve e lungo termine effettivi. Roberto Tava, ecco, vi preoccupano più, ricordiamo, voi state a 300 chilometri da Wuhan. 350 chilometri da Wuhan. Mettiamone altri 50 che è meglio. Dice, aggiungiamo un po' di distanza da Wuhan. Vi preoccupa più in questo momento le possibili ripercussioni negative economiche, o proprio c'è anche una questione di vita quotidiana vivendo lì, no? Allora, no, sinceramente soltanto le ripercussioni economiche, con tutta sincerità, cioè non siamo eroi, non siamo martiri, no? Nulla assolutamente di tutto questo. Il problema vero e proprio è il problema economico, oserei dire non a livello Cina, per quanto riguarda la Cina, quindi non a livello generale Cina, ma soprattutto per le piccole e medie imprese, perché anche noi siamo una piccola e media impresa in Cina, cioè qui ci sono un'azienda in Cina, viene definita azienda quando ha 6-7 mila operai. Noi chiaramente non li abbiamo, e chi ha 6-7 mila operai chiaramente in Italia molto non ci sarebbe un'azienda praticamente, quasi, probabilmente. E però chi ha questo numero di dipendenti, chiaramente il governo cinese lo supporta molto di più di quanto può supportare aziende medio piccole, società medio piccole. Poi noi nel particolare siamo un'azienda totalmente a capitale straniero, di diritto cinese, ma totale capitale straniero, quindi certo. è ancora diverso. Questo sì è un problema, cioè quello economico è effettivamente un problema sicuro. Allora facciamo così, tanto noi ci risentiremo nei prossimi giorni, perché questa vicenda, anche se i segnali dicono che sta insomma dovrebbe essere raggiunto il picco, ci sono dei piccoli segnali positivi, a dire ci sono più guariti dei contagiati, però è un qualcosa che ci trascineremo purtroppo nel tempo. Ringrazio Roberto Tava, titolare della Changsha Eurasia, e Mauro Sioli, titolare della Quickly Tech di Cinisello Balsamo, che è in provincia di Milano. E andiamo un attimo in pubblicità. Credo che ci sia profumo di Vestagliona oggi, Vestagliona Manera da casa. Ho capito e ho intuito così. Tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Liberalizzatela la droga, altro che andare in giro a perdere tempo ad arrestare gli spacciatori. Milan, mica starei dicendo che le sardine sono il popolo dell'aperitivo. Ho visto posti, ho conosciuto gente. Milan, tu proprio ce l'hai con le sardine, eh? Almeno se è vero che fanno politica non ci costano nulla, almeno invece i politici ci costano un sacco di soldi. No, io non ce l'ho con le sardine, però intanto... Se ce l'hai un po' con le sardine, ce l'hai un po', secondo me, cioè mica vado in giro a risolvere i problemi, cioè sono già... 1000 politici in Parlamento per risolvere i problemi, devo farlo anch'io che non sono neanche mica pagato, vado lì a conoscere della gente, no? Ragazzi, Leonardo, capito? Manera, ma a parte che oggi vestagliona Manera perché non sei a casa, tutto tranquillo. Sì, anzi, se, guarda, sì, mi richiamate tra 10 minuti che stavo finendo di bere il caffè perché ho provato un caffè nuovo, buono, no, vabbè, che è un caffè aromatizzato alla cannella. Che sì, metti normalmente nella moca, adesso sì, l'ho appena fatto, devo dire che è gratificante dal punto di vista. Ma ci fai sentire la tazzina? Emozionale. La tazzina dal che. Dal punto di vista emozionale, un caffè molto interessante. No, signori, adesso però il nostro genio, genio di Leonardo Manera, devo dire genio di Leonardo Manera, tra i vari personaggi che fa in maniera ironica, così, c'è anche appunto le sardine. Però, ma ragazzi. Ma l'hai sentita? L'hai sentito Santori a Taranto? Se vuoi te lo faccio risentire, caro. L'ho sentito. Cioè, è andato a conoscere. È andato a conoscere persone. Fa dire cose, vede gente. L'Ilva va chiuso. Mandami quello della Whirlpool di Unire. Sì, però, prego. Senti qua. Credo che sia importante. Io siamo venuti un mese e mezzo fa. Quando è stato, Maristello? Sì. Un mese e mezzo fa siamo già stati a Taranto. Io personalmente sono già stato a Taranto. C'era una giornata meravigliosa come questa. Bene, e abbiamo parlato di complessità dei problemi. Questo gemellaggio tra sì, Whirlpool ed ex Ilva di Taranto, tra lavoratori. Quindi non è credo una domanda. Un bel gemellaggio. Whirlpool ha lavorato molto bene in campagna perché è riuscita ad aggregare altre realtà che avevano vertenze simili. Ha lavorato molto bene in campagna, stanno chiudendo. L'importanza del lavoro e l'importanza del dato sulla disoccupazione. Ed è importante, cioè, anche. E non c'è niente da ridere, appunto. Cioè, quindi è quello che facciamo noi, portare qua. Cosa facciamo? Un dato di aggregazione. Un dato di aggregazione. Cioè, c'è un tavolo sindacale aperto al ministero per capire come fare in modo che le famiglie non perdano un reddito. Allora, un però dato di aggregazione. Non so se lo trovo, adesso lo cerco. Io avevo un vecchio libro, sì, dove c'erano una serie di frasi che messe insieme facevano un grande effetto, ma non volevano dire nulla. Sì, ne hanno fatto anche un film, si chiama Amici, sì, miei. Allora, si chiama questo prontuario, è di un vecchio, sì, autore che ormai non c'è più, si chiama Gustavo Palazzo, e ha fatto un prontuario di frasi a tutti gli usi per riempire il vuoto è di stupendo, nulla. È stupendo. Te ne leggo una, per esempio. Vai. L'utenza potenziale si caratterizza per il ribaltamento della logica assistenziale preesistente nel primario interesse della popolazione, sostanziando e vitalizzando nei tempi brevi, anzi brevissimi, la trasparenza di ogni atto decisionale. Cosa vuol dire? Niente. Cioè, niente. La cosa bella, certo, è che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 7 colonne. Tu puoi prendere una frase da una colonna, una dall'altra, metterle insieme. Devi e solo mai stare attento. Nessuna frase vuol dire nulla. Devi solo stare attento che la sintassi e i pezzi di frasi abbiano. Ci sta sempre. Sono tutti pezzi intercambiabili. Ogni frase è di senso compiuto, ma contemporaneamente non vuol dire nulla. È un po' a volte l'impressione è quella. No? L'impressione un po' è quella. Poi dice ce l'hai con le sardine, ma no, cioè, mi interrogo in un periodo di vuoto pneumatico della politica, secondo me, generale, mi interrogo, e questa è una domanda molto interessante, sociologica, del capire se c'è bisogno, se c'è un bisogno di centinaia di migliaia di persone di andare in piazza a stare a fianco al Movimento delle Sardine, vuol dire che c'è un bisogno da parte di queste persone a stare in piazza. Mi chiedo, queste persone che sentono questi leader che hanno, non hanno delle proposte ma fanno questi racconti anche fatti bene, si pongono questa stessa domanda, cioè a dire va bene, ma come risolviamo concretamente le situazioni? Abbiamo delle proposte? Cioè, le proposte magari ci sono anche, visto che l'Italia è uno dei paesi con più leggi al mondo. Sì, ma le proposte non possono essere aggreghiamoci, cioè nel senso sono belle. Ecco qua. Cosa c'è? No, cosa c'è lo dico io a te. Cioè, te lo dice idealmente tutto un popolo, non delle sardine, sto ma degli ascoltatori. Il fuoco sotto il latte. Sì. Ecco. Sotto il latte. Sotto il latte. Sì. Il caffè va bene, quello con la cannella, ma così con un po' di latte è anche meglio. Tra l'altro è interessantissimo perché un ascoltatore dice, altro che politica, ci spiega bene Manera questa cosa della cannella, cioè ha preso della cannella, l'ha messa nella moca, vuol capire bene esattamente questa cosa? No, è un prodotto che si chiama caffè e cannella. lo metti nella moca normale e fuoriesce dalla moca, solo che insieme al caffè c'è anche la cannella che dà quell'aroma ulteriore, gradevole anche di mattina. Quindi è caffè macinato con la cannella, mischiato, esatto, con la cannella. Sì. Si chiama così. Potremmo fare una trasmissione intera su questo invece che sulle sardine. Esatto. Gabriella invece vorrebbe sapere il nome e titolo del prontuario delle frasi inutili, che effettivamente fa parte di un libro che si chiama, di Gustavo Palazzo è l'autore, e il libro si chiama AAA autore cercasi, Sugarco edizioni. È un libro credo degli anni 70, non credo nemmeno che si trovi più in commercio. Comunque l'abbiamo detto. Gustavo Palazzo, autore cerca. Ci vuoi leggere un'altra frase, un'altra composizione di queste frasi? Sì, sì, un attimo solo che lo... Eccola qui. Vai. Allora, per esempio, sì. Il nuovo soggetto sociale persegue la verifica critica degli obiettivi istituzionali e l'individuazione di fini qualificanti con criteri non dirigistici, fattualizzando e concretizzando nel contesto di un sistema integrato l'annullamento di ogni ghettizzazione. Sai che sarebbe stupendo? Io suggerisco a Santori di pararne due o tre così e spararle e vedere i mal di testa, gli svenimenti, non so, di Formigli, i mal di testa di Floris, no? Sarebbe bello. Sì, perché tra l'altro sono anche frasi di grande effetto, quindi esatto. Sembra che si dica chissà cosa. Ci porta il Palazzo in studio, il Gustavo Palazzo in basso e legge mettendo insieme queste frasi, secondo me sono meravigliosa. Caffè e cannella sono un guazzabuglio imbevibile, come farsi un panino alla pasta d'acciughe e Nutella, ci scrive un ascoltatore. Sì, ottimo. Ottimo, va bene. Traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1, nessuno, 100 Milan. Caro Milan, ti trovo alquanto disgustoso questo continuo stillicidio sulle sardine. Ma chi sono le sardine? Siamo noi cittadini che andiamo in giro a dire le cose che non ci piacciono. Altro che caffè, tu mi sa che sei sulla tazza manera e guadagni lo stesso. Mamma sì. Mia, che grande privilegio che hai, manera. Che grande genio, manera. Che privilegio. Stare sulla tazza, seguo le indicazioni. Stare sulla tazza e fatturare, capisci che hai svoltato. Seguo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sviluppare il telelavoro. Sì. Ecco. Allora, ci sono, attenzione, mi ricordate perché le sardine si chiamano sardine? Perché alla prima manifestazione che hanno fatto a Bologna, credo, si sono ritrovati in piazza talmente stretti, talmente in tanti, devo dire che siamo qui stretti come sardine in una scatola di sardine, appunto, e da allora si sono chiamati le sardine. Devo anche dire, la signora prima si lamentava che tu ti scagli contro sardine. Non mi scaglio, ho sentito stamattina, ho sentito che prima hai parlato anche di Renzi, quindi uno scagliarsi a senso unico come di solito fai tu. Oggi sei stato un po' più equilibrato. Ho detto che seguono il vuoto pneumatico generalizzato, quindi si adeguano. Ma di solito non parli di altri, ti accanisci solo sulle sardine. Oggi sei stato anche un più, come dire. Non è vero. C'è il bottista. Smettila, leghista, vai. Allora, questi giorni fino a ieri abbiamo parlato molto degli italiani che non vogliono più fare figli. Bella sigla, c'è la suggerita maniera questa musica, bella base. Spiritual di Pat Metheny. Dicevo, abbiamo parlato molto degli italiani che non vogliono più fare figli o che ne fanno pochi. Ovviamente non c'è un'unica motivazione, ognuno ha degli argomenti da portare a supporto. E ognuno ha la propria esperienza. Io oggi qui voglio raccontarvi la mia di padre. Non ci interessa della tua esperienza, potrebbe obiettare qualcuno. Sì, ma visto che a mio parere, almeno in questo campo, ogni vita è il riassunto di tutte le vite, in questo caso la mia esperienza si potrebbe esportare dal particolare all'universale. Ricordo quando mi misero in braccio per la prima volta mio figlio Beniamino. Prima di andare in ospedale mi ero fermato per qualche minuto in un parco di Milano nei pressi dell'ospedale a riflettere un po', consapevole che da quel momento in poi la mia vita, anche la mia vita di coppia, sarebbe cambiata completamente. Poi sono arrivato in ospedale e dopo il parto me l'hanno messo in braccio. Piccolo, pesava 2,8 kg, tutto rosso, con pochissimi capelli. Allora ho pensato che doveva essere veramente mio figlio. Quando poi siamo tornati a casa e lo abbiamo sistemato nella camera matrimoniale, lui di notte si scatenava in urla demoniache che inevitabilmente minavano sonno e umore dei genitori. In quei momenti ci si chiede com'è possibile che una creatura così piccola possa emettere suoni così disturbanti. Eppure è possibile. Nel bimbo piccolo tutto si sviluppa poco alla volta, ma il suono della voce, demoniaco, è già bello e pronto fin da pochi secondi dopo la nascita. In questo la natura ha sbagliato. Anche il suono della voce dovrebbe crescere poco alla volta, svilupparsi con gradualità. Invece no, tutto il resto è piccolo, ma la voce già esonda. Per qualche inesplicabile motivo diventa ancora più potente di notte. La notte sviluppa la capacità delle corde vocali dei neonati, che piangono anche di giorno, ma a un volume più moderato. Comunque il padre, i primi tempi non serve a nulla, è un optional, neanche dei più importanti. Spesso si sente in colpa, il suo contributo a tutta la questione, risalente ormai a molti mesi prima, appare del tutto superato. E il padre serve tutto al più come sparring partner della madre quando è troppo nervosa. Il padre, quando il bimbo è piccolo, il padre non serve a niente. Poi un giorno mi sono accorto, quando Beniamino aveva ormai 6 mesi di vita, mi sono accorto che forse potevo servire a qualcosa anch'io. Da ragazzo avevo frequentato una scuola di circo e avevo imparato a fare il giocoliere con 3 palline. Un giorno ero mi sono messo di fronte a mio figlio e ho cominciato a fare quell'esercizio e ho scoperto che far girare le palle di fronte a mio figlio non produceva irritazione, ma quasi per ossimoro produceva divertimento. Mio figlio ha cominciato a ridere, a sorridere, e allora probabilmente mi ha riconosciuto come padre. Insomma, la madre serve per i bisogni primari, il padre, almeno inizialmente, solo per le cazzate. Poi però scopri che anche tuo figlio ti fa ridere. Per esempio, quando mio figlio, interrogandosi sulla sua nascita, mi ha chiesto: tu e la mamma come avete fatto a farmi? Avevate i pezzi? Oggi mio figlio ha 10 anni, io sono separato, ma quando camminiamo insieme, io e lui, ho la sensazione che anche una storia d'amore finita non bene non sia stata tutta da buttare, che comunque ci sia stato qualcosa di buono. E lo sento quando, camminando per strada, posso stringere forte la mano di mio figlio Beniamino, vale a dire quello che oggi posso riconoscere come il più solido amore della mia vita. Oh, che bella dichiarazione d'amore del nostro Leonardo Manera. L'avevi... Cioè, se potete fate figli, che è un bel casino, certo. Però è bello, è un bel casino. È un bel casino, giustamente, è un casino ma bello. E, allora, vedi che già le persone si sono informate. Il libro è in vendita a 26 euro, lo voglio, ciao Marco. E se è in vendita a 26 euro, evidentemente ha fatto una di quelle cose che fanno molti, ci sarà andato su qualche piattaforma online e ha verificato. Lo voglio, Marco, compralo. Ricordiamo il compralo, libro, no? Gustavo Palazzo, a autore Cercasi, Sugarco Edizioni. Ma tu hai detto, sì. Tu hai detto Sugarco, io ho detto Sugarco, io sono più no, internazionale. È Sugarco. Questo autore è un autore che lavorava con Marcello Marchesi, che è stato un altro grande autore del varietà, dei famosi varietà di Rai 1, quando si facevano ancora. Comunque esiste anche, molti ce lo segnalano, il Tubolario, c'è adesso online, 10 milioni di frasi pronte per straparlare di politica, sport o amore. Il concetto è sempre lo stesso, cioè metti insieme, mischi delle frasi e qualcosa viene fuori. Va bene, dobbiamo andare al giornale radio, Leonardo, tra poco la seconda. Uno, nessuno, 100 Milan. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. Ciao Milan, io vi propongo un panino con pasta d'acciughe e ricotta forte, detta anche ricotta scante. un must in Puglia, solo per uomini veri. Ciao, Mino da Brindisi. Caro Milan, giorni fa hai denigrato, deriso il presidente Trump perché aveva profetizzato che a marzo non si parlerà più di coronavirus. Vuoi vedere che avrà ragione lui? Uè, quando l'imprenditore ha parlato di punte, mandrini e ferro e acciaio, ho sentito in Milan lo stesso vuoto che lui imputa alle sardine. A lavorare un po', Milan. È vero, è vero. È vero, io una delle cose che dico sempre è che arrivo a sera e dico non ho preso in mano una brugola anche oggi. E questa cosa mi fa sentire un po'... Inutile, ma anche Leonardo Manera. No, io qualche lavoro di casa lo so fare. Per esempio, ho molti attrezzi. Perché ricordi che ho detto una volta che mio padre li faceva tenere in mano. Mi faceva tenere gli attrezzi in mano. Quindi, sia pure indirettamente, ho sviluppato un minimo di passione per i lavori. L'ho sviluppata quando poi sono andato a vivere da solo, peraltro, perché prima li odiavo. Sì. Però è vero che fare lavori di casa, mettere i tasselli, dà soddisfazione. Io l'ho detto una volta col trap. Ho bucato per mettere un quadro, ero sotto il condizionatore, ho bucato letteralmente il tubo del condizionatore, quindi avevo tutte le perdite nella parete, c'era la parete tutta muffita eccetera, una volta che, no, non l'unica volta che ho preso il trapano, però una delle volte. Devi comprare, come già ti ho suggerito, il rilevatore, sì, di tubi. Va bene, ma ho capito, sono una bestia nel fare queste cose, sono anche un pessimo giornalista, sono anche un papà magari così, insomma uno dice ma che cosa sai fare nella vita, ma non è mica obbligatorio sapere fare qualcosa, cioè ho giocato a calcio con risultati disastrosi, non lo so. Dove hai giocato? Questo non lo sapevo, no, in che squadra hai giocato? Ma a livelli così amatoriali, cioè, ho fatto tennis sempre non classificato. Cioè... ma no, perché questa è la differenza, io sono sereno così nella mia inutilità, non sono amaro come Manera, sì, ma che inizierebbe a dire ho giocato a tennis ma tutti si classificavano e io mai. Ho giocato a calcio ma nella WISP, non nella federazione. Il problema mio di quando ho giocato a tennis è che io ho rotto la milza giocando, certo, a tennis. Questo, certo, è stato veramente amaro. Allora. C'è poco da ridere. Infatti Peter con un cinismo totale ti ha messo la risata all'alpino. Ho rotto la milza. Ma sei veramente un assassino. Ho avuto un'emorragia interna, ho rischiato di morire. Quel maledetto cane mette la risata. Fai venire un altro fonico tecnico. Vabbè. Senti un po', dai, ieri è successa una roba. Metti per la Pietro la corte. No, ieri è successa una cosa per la quale non possiamo restare indifferenti. Ieri sera a San Siro, qui c'è l'orda di barbari, forse abbiamo anche un audio, non lo so, no, vabbè. Ademur, vola verso l'area avversaria. No, noi dobbiamo... È incredibile. Guarda, dobbiamo chiamare Belotti. Proviamo a chiamarlo. Vediamo un po' se suona il numero del Belotti. Eccolo qua, se lo becchi. Perché? Sì. Ol Belotti? Chi parla? Sono Milan, c'è, cioè Manera. Oh, vi aspettavo. Però hai sbagliato il pronostico. Ho sbagliato, sono stato ridotto. Guarda. Ridotto. Ma dove sei? Dove sei che c'è un casino? Dove sei? Alla camera. Incredibile, a lavorare. Notizia, no, a lavorare, a fare un cazzo, però c'è la camera in aula, è normale. Trasportato dall'entusiasmo di ieri sera, cui ovviamente non sono mancato questo appuntamento con la storia. È stato travolgente, 43.000 bergamaschi. Incredibile. Poi delle facce belle. Guarda, oggi Leonardo, tu non hai visto la Gazzetta, pagina 5, c'è la foto di uno che c'ha una barba. Ah, l'ho visto anch'io. Chi è questo? Sì, anch'io. Cioè, chi è? Ecco, ti sconsiglio di fare il galletto, dire quei bergamaschi con le canottiere e bisutti, forti di calcinacci di gesto che entrano allo stadio. Ecco, quello lì è Olbepu, che sta per Peppe Olbepu. Beppone. Il bergamasco Bepu Olbepu. Ecco, calcola che questo con la barba da vichingo, sì, un suo braccio è come una tua gamba. Sì. Ti sconsiglio di fare un po' l'ironico. No, ma io voglio bene, come può, io gli voglio un bene, anzi, se puoi portargli i miei saluti, anche i miei omaggi, le mie riverenze. Le mie riverenze. Ma sai chi mi ha ricordato quel personaggio? Sì, chi? Non so se vi ricordate il film Il Gladiatore, dove all'inizio i romani vanno a fare la battaglia contro i barbari tedeschi che sono là nelle terre del nord. Forse il primo lui, che si scaglia assomiglia moltissimo a questo personaggio bergamasco. A Olbe Pooh. Sì, però quando incontri questi barbari che scendono dalle terre del nord, ti sconsiglio proprio di fare l'ironico. No, ma infatti, guardate sulla Gazzetta pagina 5 per vedere la faccia di Olbe Pooh. Io gli porterei le mie riverenze, non so, capisce la parola riverenze se gli dici le mie. Se gli porti anche un bottiglione di vino o due costine, sicuramente ti può guardare con più interesse. Le riverenze te le puoi infilare dove vuoi. No. Un bottiglione di vino, però va bene. Ma io sono contentissimo, ragazzi, continua questo sogno dell'Atalanta. Ma vai a Valencia a piedi. Prenotato. Vabbè, assolutamente. Io dopo Valencia prenoterò già l'aereo per Istanbul. Guarda, per Istanbul la finale. Sono veramente dei ma tu senti il sottofondo qui dell'aula. Infatti, ma di cosa si sta discutendo in aula? Ma non chiedermi troppo, cosa ne so. Se mi chiedi la formazione di ieri all'Atalanta, te la dico, ma se mi chiedi cosa stiamo votando adesso. Ma tu ti rendi conto? Ma voi vi rendete conto? Poi mi accusano tutti giustamente di ridere di un fancazzista alla Camera. E mi dicono: e tu dai spazio a un fancazzista che prende in giro le istituzioni. Indecente. Indecente. Leonardo, di qualcosa tu. Io rido e sbaglio, non ce la faccio. Digli qualcosa tu. Sarei curioso di sapere se questo modo di fare aumenta il consenso elettorale nel suo collegio oppure lo porta a un crollo totale. Ma a me, guarda, per aumentare il consenso basta dire che mando a fanculo Milan e Manera e io spanco. Ecco. Basta dire questo, guarda, Belotti, allora se è la Camera ti devo... c'è Anacleto che voleva dirti qualcosa, non ho capito perché. Anacleto da Montecatini. Grullo, quando vieni qua a Montecatini? Guarda, sono lì tutte le settimane io in Toscana. Perché ricordiamo che è il coordinatore della Toscana. Incredibile. Venire un po' a muoversi, perché se no scappano i voti, diglielo. Scappano i voti. Guarda che Anacleto è un ottimo bacino di voti, Anacleto. Ti porta da Mussolini, da Benito. Benito. Oh, Belot, non pigliamo l'impegno una sera che si va a cena io e te da Benito, poi dopo si va a andare via a quei due rulli lì e a tutta lì si fa vedere quello che si beve e quello che si mangia, perché prima l'ha bevuto, capito? Poi mangiato. Vabbè. Mi sa che si intendono Olbe Pooh, Olbelot e Anacleto, una bella cena. Non ho notizia. Sai che Olbelot è astemio. È astemio. Non ci credo neanche se Olbelot è astemio. Attenzione. Questa è la bugia del secolo. L'alcol passivo ne ho respirato e inalato a tonnellate. È astemio, ragazzi. Questa è la notizia. Leonardo, tu ci avresti mai creduto? È astemio Olbelot. Non ci credo. L'unica volta che mi sono ubriacato è quando ho limonato una che aveva bevuto. Ragazzi, io direi di chiuderla qui. In questi momenti c'è il traffico che è una via di salvezza infinita. Siamo oggi, mi perdonino gli ascoltatori, ma siamo in una fase ancora post-orgasmica. C'è sempre il ritorno. State attenti. Ecco che arrivano i portasfiga. C'è sempre ritorno. La remontada è sempre dietro l'angolo. Basta un 3-0. Può capitare a Valencia, ma non capiterà. Non lo so, Leonardo, capiterà secondo te questa remontada? No, ormai siamo tutti tifosi dell'Atalanta. Esatto. Dai, devo salutare Anacleto, devo salutare Albelotto. Lo lasciamo alla Camera a lavorare in teoria e andiamo al traffico. Hai visto la nuova Fiat 500 X Sport? Nuovi paraurti sportivi, nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo doppio scarico cromato, nuovo assetto sportivo. Ma non era un SUV? SUV o Sport? Non una delle due, ma due in una. Scopri la nuova Fiat 500 X Sport. Totalmente SUV, totalmente Sport. Gamma 500 X da 14.900 euro oltre oneri finanziari con finanziamento, anziché 16.400 euro. TAN 6,45, TAEG 8,67. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 29 febbraio. Info su fiat.it. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, caro Leonardo, io mi devo riprendere sempre quando passa il ciclone Belot da tutte le critiche. Cosa dicono? Ma no, ma dire, ma dare spazio a un parlamentare che parla così delle istituzioni. E va bene, dai. Però la sua discolpa c'è anche da dire che comunque è lì presente. Sì, esatto, sì. Mi ha detto che si è svegliato alle 5, quando stamattina poi insomma gli ho scritto dopo la vittoria dell'Atalanta, poi ho detto vabbè, ma dobbiamo chiamarlo in onda. Mi ha detto sono svegliato alle 5 e sono per tornare a Roma. Quindi vabbè, almeno. Anzi, mi ha detto non ho dormito, e vabbè, perché fino alle 3 sarà stato con Olbepu. Ovviamente. Allora, signori, adesso dobbiamo parlare di una vicenda che ci ha colpito, Leonardo, a me ha colpito, l'abbiamo trovata sui giornali, perché in una scuola, la scuola elementare Gianni Rodari di Modena, due maestri di scuola elementare hanno ideato un sistema di giudizio che prevede, invece dei numeri nelle pagelle 6, 5, 8, 9, gli emoticon, le faccine, quelle che utilizziamo per i messaggi. Saluto Eva Pigliapoco e Ivan Sciapeconi, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, ciao Alessandro. Buongiorno. Sono su due linee diverse, ma sono, si può dire, sì, se non siete sì. Marito e moglie, sì, no, nel senso, no, va bene, nel senso, non sai mai, ecco. Allora, voi come avete... Come va il rapporto? Ecco, Manera, subito Manera. Leonardo, questo nella parte finale dell'intervista, adesso occupiamoci della notizia. Avete inventato questo sistema, tra l'altro la nostra Elisabetta Fusconi, che è svizzera, dice che nelle scuole svizzere già ci sono questi sistemi, sempre avanti. Esatto. questi. Esatto. Chi è che risponde? Eva, dai, iniziamo. Vai con Eva, sì. Spiegaci un po' questo sistema di pagelle. Questo sistema intanto diciamo non è che proprio ce lo siamo inventato, sono anni di studio, di confronto anche con alcuni sistemi appunto del Nord Europa, e per la casa editrice Ericsson ci occupiamo anche di formazione sulla valutazione, abbiamo delle pubblicazioni a riguardo, insomma diciamo è un tema che ci coinvolge sotto tanti punti di vista, primo da tutto perché siamo maestri appunto di scuola primaria. E quindi niente, insomma, l'idea è stata quella di proporre una modalità di valutazione, insomma, a partire dalle classi prime, dove siamo quest'anno, che uscisse un pochino dall'idea di valutazione calata dall'alto, dall'insegnante, sì. Giudicante in un qualche modo. E quindi, insomma, cioè, l'obiettivo è cercare di non traumatizzare i bambini? Questo è il... Sì, di non far percepire la valutazione come un giudizio proprio che cala dall'alto. La valutazione ha senso quando aiuta i bambini e le bambine a migliorare insomma il loro percorso. E capire. Quindi serve un'autovalutazione. No, questo è l'origine, insomma, il motivo per cui avete mutuato questo tipo di scelta. Io faccio questa domanda critica, anche se volete, a Ivan. Non si tengono così i bambini, che è un po' l'idea moderna sotto un'eterna campana di vetro, a dire guarda, non ti si può giudicare, l'idea di farli crescere è sempre un po' così, in maniera iperprotettiva, esatto. Ivan Sciapeconi, che pensi? Sì, no, questa cosa te la smonto subito, nel senso che il meccanismo funziona così. I bambini esprimono la propria valutazione su una scheda, con le emoticons, e gli insegnanti esprimono la propria valutazione su una scheda identica. Sì. Dopodiché, nel momento del colloquio con i genitori, In realtà il colloquio avviene tra insegnanti e bambini e si discute sulle differenze, sì, o sulle, diciamo, sulle concordanze espresse durante la valutazione. Questa quindi cosa dell'autovalutazione è fondamentale, non va assolutamente né denigrata né sottovalutata, la fa anche mia figlia a scuola, ai salesiani, cioè è importante che lo studente impari ad autovalutarsi e poi confrontarlo con le valutazioni degli insegnanti, perché è importante. Se questa cosa avviene normalmente durante le attività didattiche, arriva a un certo punto che la valutazione cambia di senso tradizionalmente e viene espressa solo dall'insegnante. Secondo noi questo meccanismo è rischioso, nel senso che in quel momento, nel momento della pagella, tu dici al bambino, nel nostro caso, quello che pensi tu di come è andata non conta niente, la valutazione la esprimo solo io. Invece con questo meccanismo, alla pari, discute sul percorso che si è compiuto e sulle potenzialità, diciamo, sulle cose da fare in futuro. Quindi non avete paura di depotenziare un po' il ruolo dell'insegnante, che ha un po' quel ruolo anche di dire: senti, io ti ho seguito nel percorso, non è impositivo, però a un certo punto ho il dovere anche di dare in qualche modo una valutazione, certo che sia uno stimolo, non è che deve essere una bocciatura, una stroncatura, però ho il dovere di darti anche un 5 se questo Eva, ecco, che ne pensi di questo? Allora, intanto diciamo così, in questa sperimentazione non abbiamo in realtà abolito i voti. I voti ci sono per legge e li daremo al secondo quadrimestre, come da legge, diciamo. Però stiamo parlando di bambini di prima che hanno 4 mesi di scuola alle spalle, sì, e che onestamente, insomma, un valore alla differenza, insomma, tra un 5 e un 7, cioè, viene visto come un'etichetta negativa. Se prendi un negativa 5, sicuramente, insomma, ma qui danno poco valore. Cioè, gli insegnanti fanno differenza tra un 8 e un 9, forse i bambini no. Capito? Insomma, quindi intanto da un punto di vista proprio comunicativo i voti comunicano poco e poi il feedback dell'insegnante in ogni caso c'è sempre, come spiegava Ivan, in fase di colloquio c'è una restituzione anche dell'insegnante, c'è un confronto, ma c'è anche un mettersi in gioco ascoltando quello che è il racconto, sì, degli alunni, sì, sostanzialmente. Beh, che spesso ti danno delle sfumature che, per quanto tu voglia essere oggettivo, non riesci sicuramente a cogliere. Sì. Okay? Leonardo, tu che no, ne immagino pensi? Che arriveranno messaggi di critica, però bisogna le critiche sì, ci sono. È anche vero che io, per esempio, mio figlio elementare, ma non solo lui, tutti i suoi compagni, non ho mai visto un bambino che prendeva 5, 4 in matematica, per dire. Perciò bisogna anche dire che i voti di regola non sono quelli che poi si prendono i superiori, tendenzialmente sono sempre molto generosi, quindi anche quelli in qualche modo hanno un valore relativo, insomma. Infatti comunicano poco, è quello che stavo spiegando, cioè una differenza tra un 8 e un 9, che per un insegnante è enorme alla scuola primaria, sì, insomma, per i bambini e per le famiglie ancora di più, insomma, di meno, non comunicano nulla, però in realtà sono abbastanza seri. Ecco, c'è questo tipo di obiezione, chiederei a Ivan, arriva da un ascoltatore, e una faccia triste sarebbe meglio di un 5? Non abbiamo utilizzato facce tristi, abbiamo utilizzato, diciamo, una espressione faccia perplessa. Esatto, c'è una faccia perplessa. La comunicazione è: sono soddisfatto del lavoro che ho compiuto, faccia felice, sono, diciamo così, a metà strada rispetto a questo grado di soddisfazione, sono stupito, terzo livello, quello che noi diremmo più basso, sono stupito perché diciamo, mi stai dicendo che questa cosa qui non va, oppure ti sto dicendo che non sono andato. Una considerazione: questo sistema è molto presente nei paesi del nord Europa, dove la figura dell'insegnante è ritenuta centrale da un punto di vista sociale, proprio perché probabilmente non è autoreferenziale, sì, ma si mette, diciamo, in discussione. In Italia, dove la figura dell'insegnante, lo sappiamo dalla cronaca, sta perdendo quota, diciamo molto, così, sì, esatto, forse dovremmo abituarci a essere meno autoreferenziali, a essere più disponibili rispetto al confronto anche con gli alunni, insomma, oltre che con le famiglie. No, ma io infatti, allora devo dire, anch'io le mie avevo e ho qualche perplessità, però ascoltando la vostra esperienza e visto che si dice sempre in Finlandia ci sono i metodi di insegnamento migliori, nel Nord Europa, dal Nord Europa crescono gli studenti con profitti migliori, questi secondo tutti i dati OCSE PISA internazionali, e allora una volta che facciamo una cosa mutuata da quei paesi, non guardiamola sempre con scetticismo, anche se lo scetticismo potete immaginare c'è, perché insomma ci sono le perplessità. Però ce l'avete spiegata bene questa vicenda. Ora, per la conclusione dell'intervista, vi passo a Leonardo Manera, che sicuramente vorrei sapere da quanti anni siete sposati. Io lo sapevo. Guardate che finisce sempre male questa considerazione di Manera. Vediamo. Ci siamo sposati dopo 20 anni di frequentazione. Ecco. Leonardo. Di voi vi parlate o vi mettete delle faccine per valutare il rapporto? Esatto, con le dopo faccine, un rapporto, no? Ad esempio. Ecco, no, vabbè, Leonardo. Il riferimento è interessante. No, perché il finale sicuramente. Allora, il motto di Leonardo Manera, ricordiamolo, qual è, Leonardo? Lo dici tu? L'amore finisce sempre e comunque. Ecco, questo per dare un po' di ottimismo. Quindi io vi consiglierei di chiudere qui il vostro intervento. Pensavo però che si potrebbero mettere delle immagini anche più significative per i bambini. Per esempio, se un bambino va male, si può mettere l'immagine di Babbo Natale con sopra una croce. Come dire, l'anno prossimo niente regali. Niente regali. Sarebbero... Esatto. Ce lo segniamo questo. Ci si potrebbe sbizzarrire. La valutiamo questa. Bene, noi ringraziamo Eva Pigliapoco e Ivan Sciapeconi, che sono due maestri della scuola elementare Gianni Rodari a Modena. Hanno ideato, quantomeno in Italia, hanno importato, ecco, facciamo così, hanno importato questo sistema di giudizio con emoticon di valutazione, di autovalutazione degli studenti, anche in prima elementare, invece dei voti 5, 7, 9, 10. Poi tu hai mai visto un 4, Leonardo? Hai mai visto mai, un 4 infatti in quello che dicevo prima, non si danno mai quei voti all'elementario. No. Si tende sempre a essere molto generosi, che non va neanche bene perché il bambino si illude. Si illude. E poi... Invece questi puntini dovrebbero imparare che la vita, no? Sì, lacrime, dolore e sangue. Invece tu li illudi elementari dando un 8 che poi magari alle superiori vale un 5. Guarda, hai usato questo verbo illudere e indovina chi è comparso in regia? Il dottor Meazza, col suo elisir del dottor Meazza, l'uomo che illude tutti gli italiani con i suoi prodotti farlocchi. Esattamente, guarda, c'ha una boccetta che gli spunta dalla giacca, effettivamente. È di colore più rossastro però che marrone, no? Perché tu l'hai visto l'elisir del dottor Meazza? Sì, l'ho visto. Sì, l'ho visto. Sì, è tra quel rossastro e marrone, quel colore indefinibile. Color come tamarindo, si usava una volta. Come color tamarindo, granita al tamarindo, che buono. È come un amaro un po' più rosso, ecco. Tendente al rosso. Che già non ti invoglia tantissimo. Ah. No, però lui lo vende come panacea per tutti, di tutti i mali, quindi va bene. O finché riesce a arrotondare così, Mauro Meazza, va bene. Sarà poi che dovrà rendere conto. Allora, dai, andiamo a sentire le informazioni sulla borsa. 1, nessuno, 100 Milan. Ma io sono qua in officina, sto saldando un paraurti, sento Milan e sono più contento. Sì, sono Davide da Prato, buongiorno, ma volevo sapere, ma questo è il Belot, ma di che partito è? Non mi ha capito. Lega. È una vergogna quando si sente un politico che si prende in giro se stesso a non fare niente e prende una valanga di soldi. È una vergogna fare niente. Milan, 40.000 bergamaschi a San Siro costruiscono lo stadio nuovo in 2 ore intanto che guardano la partita. Questa non è male, questa effettivamente è un'idea che potrebbe... Giustamente Miriam Lucchetti fa anche il segno calcio e cazzuola, Non è male, cioè, potrebbe invitarli tutte le partite dell'Atalanta e il Bepù, mentre esulta tra un gol e l'altro, una costina e l'altra, ti sistema 2 gradoni. Beh, sì, è un'idea, è un'idea. Allora, caro Leonardo Manera, guarda che ci ha chiamato, ci chiama Paola da Modena, mi segnalano che è madre di un figlio che credo ha avuto questa, ha ricevuto la pagella con gli emoticon, è così Paola? Ciao, ciao Alessandro, ciao. Eccoci, Leonardo. Ciao. No, in realtà non ci siamo arrivati alla pagella, nel senso che quando era in seconda elementare io sono, cioè, ho un figlio che è andato alla scuola elementare di una, della provincia di Modena, in realtà, non di Modena città, e hanno fatto questo esperimento le maestre di cominciare a dare i voti con appunto le emoticon, se sto parlando della seconda elementare. Okay. Allora il mio figlio, il problema è che veniva a casa disperato a volte perché diceva la maestra era triste, andavo a vedere e c'era l'emoticon con la faccina triste. Adesso ho sentito i maestri hanno tolto la faccina triste, sì, l'han tolto. Sì, perché il problema che, e tra l'altro non era l'unico mio figlio che aveva questo problema di vivere le emozioni che trasferiva alle maestre attraverso questi emoticon. Cioè loro pensavano, loro pensavano, non lo interpretavano come un voto, ho deluso la maestra. Esatto, e quindi il problema qual è? Che effettivamente se negli stati del nord Europa funzionano queste cose, in realtà non hanno detto chi è intervenuto prima che ad esempio in Finlandia e in Norvegia fanno delle ore strutturate di educazione emotiva, affettiva, dove effettivamente trattano tutti questi temi, cioè sono abituati a parlare delle emozioni e insegnano i bambini a gestire le emozioni. Allora, invece dice sei in Italia, sì, chiaro, non si fa questo lavoro preventivo, rischia di diventare, beh, interessante. Ha ottenuto la signora quello che in medicina si chiama effetto paradosso, cioè tu prendi un medicinale per risolvere un problema e invece quel medicinale ti aggrava il problema che hai già. Quindi Paola, arriva molto diretta questa, cioè è proprio un'emozione che arriva diretta al bambino. Il bambino lavora molto con le emozioni, le sente molto. Quindi possiamo tradurre così: il bambino effettivamente capisce meglio l'emotico rispetto al voto, però c'è un impatto emotivo, almeno lei l'ha constatato in suo figlio, più forte. Come una certa educazione. Come la fai Paola? La sbagli? È vero. Non ci si prende mai. Vabbè, ma questo esperimento, Paola, l'hanno dismesso nella scuola di tuo figlio? Sì, dopo non è più andato avanti, anche perché io comunque ho fatto presente che cosa viveva mio figlio nel vedere, diciamo, questo tipo suo figlio quando prendeva un 4 era contento. Esatto. Oh, ho preso 4, mamma, finalmente. Però la maestra non piange più. Insomma, comunque è difficile, cioè capisco anche per le maestre che è difficile dare un feedback, però poi dopo mi chiede, ecco un altro controsenso, però quando si consegnano le pagelle, magari non in quella scuola, adesso la Rodari di Modena non ho ben presente quale sia, ma in ogni caso il controsenso è che poi quando consegnano effettivamente le pagelle dicono, oppure i colloqui con i genitori, i bambini devono star fuori. Allora, voglio dire, cominciamo a metterci d'accordo. Bene, effettivamente. Perché cioè, coinvolgere. Beh, effettivamente questa è un'altra idea, cioè consegniamo la pagella ma alla presenza dei bambini, così spieghiamo. Va bene, Paola ci ha dato degli altri strumenti per capire o farsi vedere. È vero che quando i genitori vanno ai colloqui per i figli è un momento comunque di preoccupazione. Sapere cosa, no? Sentono un po' anche loro, si sentono sotto esame. Sempre. Cioè, Pino, Cosa ha detto la maestra? Vediamo se i piange. I genitori apposta si divertivano a dirmi: ah, stai andando malissimo. Così per Oh, Pino da Milano, eccoci, pronto. Buongiorno Milan. Sì. Io desideravo dire due cose. La prima è che i bambini sono molto emotivi, ma non sono in grado di valutare né se stessi né la maestra né tantomeno i genitori, che influenzano i bambini dalla nascita in tutto e per tutto. E l'altra cosa è la deresponsabilizzazione degli insegnanti. Ma come? Si parla tanto di professionalità, si parla tanto che gli insegnanti devono capire come sono i ragazzi, devono vedere le loro attitudini, le loro emozioni e cercare di tirare fuori il meglio che c'è da loro, dopodiché demandiamo ai bambini di dire cosa ne pensi di te stesso. Però Pino, attenzione, cioè... no, ma io sapevo che l'autovalutazione sarebbe stata criticata così, ma l'autovalutazione non vuol dire bambino decidi per te stesso e quello mi sta bene, ma caro bambino, cara bambina, tu come ti vedi, come ti valuti su queste cose? Poi a fianco, dopo che mi dai la tua autovalutazione, io insegnante ti do invece la valutazione da insegnante, e serve a paragonarle, perché laddove l'autovalutazione è uguale alla valutazione dell'insegnante, significa che il bambino, la bambina sta maturando una consapevolezza di sé corretta. Laddove invece ci sono delle discrepanze evidenti, si può lavorare col bambino a dire: caro bambino, cara bambina, guarda che tu ti vedi, come dire, non so, sull'attenzione ottima, e invece io ti segnalo che sei scarso. E allora forse bisogna lavorare sulla autovalutazione, che è la percezione di sé, che è fondamentale, è uno degli elementi strutturanti della crescita di una persona, poi anche da grande. Quindi l'autovalutazione, l'autovalutazione non è demandare autovalutati e va bene così, ma autovalutati e poi confrontiamo con la valutazione dell'insegnante. Da un lato. Poi c'è anche il rischio che, visto che viene messo più o meno su un piano paritario, il bambino possa dire: ma questo lo dice lei. E questo vuol dire che è un bambino con una scarsa valutazione di sé ed è pronto a essere ospitato perennemente a Porta a Porta, per esempio. Ottimo. O a fare non per Porta a Porta, ma perché diventerà un ottimo politico. No? Ti piace? Ma come? Infatti, no, dico sì, sì, certo, può essere. No, perché chiudiamo tutto come abbiamo livello, iniziato. Chiudiamo, facciamo un grande cerchio. Vedi, che ore e ore di riunioni di redazione hanno portato a questa circolarità. La circolarità, va bene, dai Leonardo, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Vuoi lanciare tu il traffico da casa tra un caffè alla cannella e... Sì, se siete per strada, e purtroppo mi dispiace per voi in coda, io invece sono qui tranquillo a casa, sto bene, ma per quelli che sono per strada, tra. Uno, nessuno, 100 Milan. Io mi immagino, dopo quel lancio di traffico di Manera, quante centinaia di migliaia di vaffa sono arrivati idealmente, come quando uno, dici tu, al casello autostradale manda a quel paese, cosa che io non ho mai fatto, la vocina, no? Io sono a quasi casa, staccati un attimo e ricollegati che non si sente bene. I messaggi di insulti, io sono a casa tranquillo, ma voi che siete nel traffico, ecco qui le informazioni del traffico. Io mi immagino, ma vaffa. Cioè, tu ci stai dicendo che quasi tutti insultano la vocina dell'autostrada? Quasi tutti, sì, sì. Io credo che sia un istinto naturale. Ma perché? Ma perché? Buon viaggio! Ma perché? Ma lo fanno tutti! Ma perché? Perché? Io non l'ho mai fatto! Perché, prima di tutto, perché sanno che non c'è reazione. Non è che la vocina poi esci da un colpo sulla testa se tu la insulti. Quindi è un modo di sfogarsi. Quindi è, ma sfogarsi è il benvenuto. Di cosa? Anzi, io invito tutti a farlo di più. Ecco. Non passate col telepass e neanche col casellante, andate solo dove c'è Via Card. Chissà se questo è un modo che vi fa stare felici, bene. Non lo so. Vi fa stare l'importante, bene. Cari ascoltatori, è stare bene. Il professor Jansen. È il modo di stare bene. Io è psicologo Jansen, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Anche a lei, caro Alessandro Milan, oggi la sento un po' nervoso. E allora oggi voglio indicare una serie di cose che fa stare male e come si può rimediare a queste cose che fa stare male. Bene. Ecco, alla fine vedrete che starete bene, perché se noi riusciamo a eliminare le cose che fa stare male, automaticamente stiamo bene. Questa è un'affermazione, certo, su cui nessuno può discutere. Togli il male e avrai il bene. Vediamo alcune cose che fa stare male. Per esempio, la principale causa di sofferenza sono i problemi in amore. Litigare con la fidanzata, il fidanzato, fa stare male. E magari è una situazione che già si era ripetuta in altri rapporti. Qual è la soluzione, Alessandro? Quale? Vediamo se tu... Cambiare sesso. Come? Perché? Come cambiare? cambiare sesso. Se tu continui a litigare con la tua fidanzata, forse vuol dire che non sei adatto a stare con le donne. Mm. E allora prova a cambiare sesso, poi magari con un altro uomo non litighi. Allora cosa fai? Ti fai asportare i genitali, no, te li fai tagliare con un bel furbicione, che è anche un'operazione di routine, e poi vedi se stando con un uomo è meglio. Hai qualche prezzo da pagare, qualche abitudine sessuale da cambiare, ma è un prezzo piccolo di fronte alla serenità che puoi trovare, la felicità dell'eunuco. Mm. Tu hai mai la visto eunuchi arrabbiati? No, non lo so. Lo stesso vale per le femmine. Femmina, si litiga l'uomo, ti fai applicare un bel organo di silicone con del mille chiodi, con del Bostik, e provi a vedere se conviene. Metodi proprio artigianali, cioè. Seduta si usa in salope. Sì, mi passi il Bostik, prego. Sì, Bostik, mille chiodi, mille bisturi, Bostik, sì. E invece di stare lì, do un consiglio anche per i medici. Vediamo, attenzione. Questo di stare lì a suturare punto per punto, che è una cosa lunga, sì, noiosa, dice passami assistente a mille chiodi. E allora senti in sala operatoria, mille chiodi, mille chiodi, mille chiodi, e chiudi con quello. Allora, altra cosa che fa stare male è i problemi economici, no? Mm. Che non ti fa dormire di notte, ti danno preoccupazioni, e giustamente, perché è la parte importante della vita, il denaro, perché ci sono tre cose che contano nella vita: i soldi, il denaro e la fresca, sì, come si dice. Quindi è importante avere denaro in abbondanza per permettersi i vizi che sono il sale della vita, per potersi permettere qualche viaggio, qualche capriccio, qualche prostituta di alto bordo, qualche smandrapata, perché altrimenti la vita è monotona se devi solo pensare al lavoro. Chi pensa solo al lavoro è un maniaco da ricoverare. E bisogna allora arrotondare per avere più soldi. In che modo? Fai qualche ora di straordinario, ma ti rende poco. Qualche truffa. Perché la truffa rende molto, ma soprattutto qualche truffa, se noi riusciamo a trovare le persone giuste da truffare, in fondo non è proprio un reato, no? Ma come, perché no? Anche l'altro è un credulone, ha voluto essere truffato. Ci sono tanti modi per truffare, l'importante è scegliere la truffa giusta e le persone giuste. E poi l'altra cosa che fa stare male più di tutti qual è? L'invidia. È vero. Quando vedi magari un tuo collega che guadagna più di te, che ha più successo di te, ha un amore e un marito più belli dei tuoi, e allora ti senti invidioso. E allora cosa fai quando c'è l'invidia per non continuare a soffrire? Ti devi vendicare. Ma no, ma la vendetta, il piacere della vendetta della persona di cui sei invidioso, perché è solo con la vendetta che puoi provare soddisfazione. Allora individua la persona di cui sei invidioso e cosa fai? Quando esce il lavoro, zac, gli righi la macchina, gli scrivi cretino sulla fiancata, ma no! O anche altre parole più pesanti. Poi devi far diventare lui invidioso. Se sei un uomo, paghi delle escort di alto bordo per farti vedere insieme a donne più belle sua moglie, lo denigri alle spalle finché riesce a diffondere dei sospetti sul suo conto, e soprattutto ogni volta che lo incontri, pam, gli dai uno schiaffo sul copino. Ecco. Seguendo queste regole, ricapitoliamo quali sono. Sono quelle del litigio in coppia, poi quella dell'avere più denaro e della vendetta. Se riesci a avere queste regole di vita, riuscirai a stare bene. Parole del professor Janssen. Ricordatevi il mille chiodi per suturare in sala operatoria. Il mille chiodi, sì. Mille chiodi, grazie. Va bene, professor Janssen. Noi la ringraziamo perché ci dà sempre delle ricette per stare bene. Se vuole aggiungersi a Leonardo Manera, suoni signor Bonetti, ultimo piano, e si faccia un caffè alla cannella. Così. Seguirò questo consiglio, il caffè alla cannella è molto saporito. Tanto troverà bene anche quello. Troverà Manera tutto il giorno a casa, in vestaglia, in autoquarantena, va bene? Noi ci troviamo domani alla solita ora, vai.